pace di Cristo sia sempre nel tuo cuore. L'amore fraterno ci riunisca in solo corpo. In questo abbraccio, in questo bacio, sia la supplica e l'impegno. In questo abbraccio, in questo bacio, costruiamo il nuovo regno. La pace di Cristo sia sempre nel tuo cuore. L'amore fraterno ci riunisca in solo corpo. In questo abbraccio, in questo bacio, pace a te, pace a te, pace a te. In questo abbraccio, in questo bacio, pace a te, pace a te, pace a te.